Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. 22 passate da 6 minuti, buonasera da Agostino Spalaore, buonasera anche da Maurizio Calzavare, ciao Maurizio. Buonasera Agostino. Ciao, benvenuto anche a te. E questa è una serata particolare, io non ci dovrei essere, ma insomma abbiamo un grande ospite, quindi è giusto essere presenti, staccano visti come non mai in questo mese di agosto. Allora, questa è la vostra emittente preferita, si chiama Blu Radio Veneto, e le nostre frequenze, ve le ricordo, 88.794.600 MHz in modulazione di frequenza. Vi ricordo il nostro sito che è www.bluradioveneto.it, dove potete ascoltarci in streaming audio e anche vederci in streaming video. Basta semplicemente, se volete risparmiarvi il tempo di cercare o di digitare nella recensione che il buon Maurizio di solito fa, giusto Maurizio? Sì, sì, esatto. Dell'artista presente questa serata, digitando, cliccando anzi, meglio ancora, su diretta audio, diretta video, potete vedere e sentire i nostri ospiti. Ogni volta che facciamo live sapete benissimo che apriamo anche le nostre webcam. Vi ricordo i nostri numeri telefonici, quello in studio è lo 049 875 6423, mentre per quanto riguarda gli sms è il 346 23 20 033 2208. Mercoledì 10 agosto 2011 siamo in diretta totalmente. Maurizio, chi abbiamo questa sera? Stasera abbiamo in soluzione, rappresentati molto bene, posso dire, da Luca Nuzzolo, che è praticamente il leader e l'immagine di soluzione stasera. Come stai, Luca? Bene, bene. Hai fatto un buon viaggio da Roma? Sì, diciamo, non c'è stato traffico. Non c'è stato traffico, esattamente, perché diciamo, in soluzione sono dei ragazzi di Mestre, però vivono stabilmente a Roma adesso. Sì, esatto. Avete deciso di andare nella capitale, sì, che forse offre musicalmente più vantaggi, Luca, oppure no? Ti faccio questa domanda a bruciapelo, non so se è proprio, è molto gradita, ma insomma te la faccio. Guarda, dopo 6 anni di vita lì instabile, posso dirti che non è vero. Mm. Anzi, ci sono grosse difficoltà, come qui a Mestre. Quindi non è che si dice che Roma offre tante cose. Forse è più grande, magari, vabbè, spazi ce ne sono di più, ma è comunque difficile. Ho capito, anche difficile. Spazi che offrivano la possibilità alle band emergenti o comunque ai progetti avviati di suonare, adesso hanno chiuso proprio i battenti. Ah, ho capito. Hanno proprio smesso di, addirittura fanno suonare solo qualche cover band che gli garantisce un certo seguito, un certo budget. Perché sempre mai queste cover band, Luca? È sempre Vasco e Liga si insinuano dappertutto in continuazione. Massimiliano ride, ma poi parliamo anche con Massimiliano, che è il produttore del disco. Perché cover band? Non lo so, forse perché magari il discorso verrà fuori anche più avanti. La gente non ha più voglia di cercare qualcosa di nuovo. E quindi qualcosa di pronto, già ascoltato, comunque di orecchiabile. Sì, le case non hanno più voglia di fronteggiarsi, di rischiare sugli artisti, è così, Luca? Sì, questo sta alla base. Sta alla base di tutto. Ma credo che l'altra parte di colpa si debba dare a chi ascolta invece. Ho capito. All'ascoltatore, al fruitore. È un po' distratto fra un hamburger e una patatina, può capitare. No, è vero. Purtroppo ho detto per me è veramente così. Agostino è stato anche lui in giro, questa settimana è andato in Sicilia, anche lui ha tastato, come si dice, le cose, cioè anche lui ha provato che non è mica tanto semplice trovare, suonare i pezzi dal bio propri, questo è importante. E stasera, questo è Rockway, è una caratteristica di Rockway, non quella che facciamo noi, che è proprio la caratteristica di far sentire la gente che deve emergere, gli indie, che ce ne sono tanti di bravi, interessanti in Italia. Non c'è solo Vasco, per carità Vasco, niente da dire, non c'è solo Ligabue, o ci sono le cover band di Vasco Ligabue, ci sono le band come la vostra che si dà da fare e fare un disco di 65 minuti, posso sottolineare, non è una cosa semplice, dura 65 minuti ragazzi, quindi è una cosa, una specie di concept album. Sì, era stato concepito, così, è stato prodotto da tuo fratello che è qui presente. Sì, è stato prodotto, non vuole parlare ma è qui presente. Ma poi lo facciamo, ma dopo lo facciamo parlare. È uno spirito onnipresente. Che ha prodotto e ti ha dato una mano alla produzione praticamente. Sì, beh, sicuramente. Ma diciamo che è nato da un confronto continuo. Io musicista, lui scrittore. Certo. Ci confrontiamo sempre prima di mettere di fronte a un pubblico vero e proprio la nostra opera, se si può definire tale. Comunque ci confrontiamo continuamente, quindi... Chi è che vince? chi è che vince? Ma siamo molto obiettivi, non è che il nostro sangue non c'è uno che predomina sull'altro, vero? No. Assolutamente. Che bello questo. L'esperienza segna, un disco che è stato in città, è stato pubblicato in aprile, doveva essere pubblicato un mese prima. Com'è la storia di Jean-Paul Sartre che alleggia questo straordinario personaggio? Ma vabbè, sicuramente per ricordare la sua morte, ma in realtà c'è stato un piccolo problema tecnico. Sì, doveva uscire il 15 aprile, invece poi per problemi tecnici è uscito un po' dopo. Sì. Però al di là di questo discorso del problema tecnico, c'è un motivo per citare Jean-Paul Sartre, perché dal punto di vista della poesia c'è dentro, c'è un collegamento. Ah, vabbè, diciamo che la forma della canzone, così come ho sempre cercato di portarla avanti, ha un peso del 50%, cioè ha una forma, il testo deve avere una certa sostanza, sì. Non deve essere così leggero, o forse quantomeno orecchiabile, ma comunque anche nella sua musicalità, orecchiabilità, deve avere un certo peso. E nello specifico poi tra i vari scrittori, tuoi riferimenti, insomma, sì, ideali, Jean-Paul Sartre, ma per quello che mi trasmetteva come emozione. Poi ovviamente è molto difficile anche, certo, addentrarsi in tutto quello che è l'esistenzialismo o che gli hanno voluto attribuire spesso e volentieri, certo. Si distanziava da come l'avevano definito, tant'è che lo ammiro come persona soltanto perché ha rifiutato il premio Nobel. Sì, quando questo, detto, questo è vero, uno di pochi. Quindi diciamo è più leggendo qualche punto da Tutto e Nulla, mi ha colpito l'emozione proprio che mi ha trasmesso, l'ho voluta trasferire in parte alle canzoni che ho. Citiamo anche gli altri componenti delle band che non ci sono stasera, ma idealmente sono presenti, se si stanno seguendo via internet. Sono due Massimiliano. Benissimo. Massimiliano al basso e Massimiliano alla batteria. Perfetto. E dal vivo come vi presentate di solito? Beh, diciamo, siamo in tre e abbiamo l'ausilio di campionatori che ci supportano e abbiamo delle strutture comunque elettroniche che si miscelano a una parte completamente elettrica. Ecco, l'importante di questo disco, c'è cioè un'unione tra elettronica e rock praticamente, è una caratteristica di questo album secondo me, in alcuni momenti. Ti posso dire addirittura che è una mia caratteristica, ho sempre cercato di fondere l'elettronica, perché io arrivavo da vecchie esperienze dove con il primo gruppo con cui ho suonato, i Trans di Venezia, eravamo solo sintetizzatori. Il mio gruppo è proprio il primo in assoluto che ho ascoltato, sono stati Depeche Mode, poi da lì c'è stato un excursus, ho ascoltato, mi sono aperto, sono arrivato oggi ad ascoltare gruppi per me una volta inesistenti, per cito uno, Peter Gabriel. No, non perché adesso per me è diventato un grande, ma io a 15 anni, cioè proprio, chi è? Il padre, lo conoscevi. Il padre dei Genesis. Quindi diciamo l'insieme si è avvicinata quindi tutta la parte acustica ed elettrica delle chitarre a quella che per me invece era più chiara. La base elettronica. E quindi ho cercato. Hai messo una cosa assieme, hai condensato un po' tutto. E mi fa piacere che mi dici che c'è un buon equilibrio. È un equilibrio tra determinati suoni alle tastiere, tra virgolette, e i suoni praticamente rock, con qualche puntatina di dark, di oscuro, secondo me, leggermente, cosa dici? Sì, dopo parliamo con Massimiliano, che lui ha prodotto. Devi intervenire, anche te hai dato qualcosa al disco. No, hai centrato nel segno, tutto il disco è permeato da questa vena dark o melanconica. Sì, melanconica, non proprio dark, da melanconica, questo. Sicuramente, fa parte forse del mio essere, cioè proprio dei miei ascolti, delle mie letture. Certamente. Comunque sì, è permeato completamente. Il disco si intitola L'esperienza segna. Esatto. E c'è un titolo, anche una bella copertina. C'è questa rosa per terra, calpestata, non so volutamente o no, però ha un certo senso. E poi c'è la chitarra dietro, la chitarra è sempre presente, sacra, la chitarra è fondamentale. Apriamo la nostra finestra, come sempre, sono le 22:15 e qualche secondo. Il primo pezzo che abbiamo scelto, Agostino. L'ha scelto lui, è quello che dà il titolo all'album. È la title track, come si usava una volta. L'esperienza segna. Perfetto. Ci sono cose che non riesco più a dimenticare. L'esperienza segna ed io so che non sarò mai più pulito. fermano, guidami. So che non ci sarà più nessuno ad aspettare me. Io lo so che ogni tramonto è l'immagine del mondo che mi avvolge, che ogni tramonto è l'immagine del mondo che io osservo, che ogni tramonto è l'immagine del tempo che non torna più. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Abbiamo sentito allora l'esperienza segna, questa title track, il pezzo iniziale. A microfono spento io e Luca parlavamo anche come assimiliamo, anche se non vuol dire niente, ma era sempre, faceva parte del discorso. E iniziare con un pezzo simile e di un certo minutaggio è una cosa molto positiva, è una, ci vuole coraggio e io sono contento per te. Pezzo molto interessante, queste tastiere che entrano e che escono, questo finale molto particolare. Come l'hai elaborato musicalmente? Perché qualcuno, lui diceva, il tastierista amava molto le orme. Sì, amava molto le orme, probabilmente le orme un certo background, anche, ma anche Keith Emerson, anche Keith Emerson giocava a queste cose. Sì, Moog. Esatto, il Moog, assolutamente. Vabbè, la composizione, diciamo, la struttura base è nata suonando qualche canzone. Come, era un accordo di chitarra da cui è nato il pezzo? Sì, stavo studiando veramente la canzone di Radiohead. Ah, bene, quale? Carmopolis. Perfetto. E da lì ho associato varie sensazioni. Poi quando mi metto a studiare, soprattutto mi lascio proprio guidare dagli accordi, non seguo più uno schema preciso. Le mani viaggiano da sole, poi è venuto fuori tutto il resto. Poi siete andati in studio, avete elaborato il progetto, l'avete allargato praticamente. E poi appunto il minutaggio sostanzioso è venuto fuori alla Radiohead, possiamo dire questo. possiamo dire Beccano Polis era un pezzo di più di 5 minuti qua. Ma mentre facevamo le prove, perché non aveva la costruzione finale così, che cambiava tempo, certo, aumentava del doppio della velocità per poi ripetere. Ecco, Agostino te l'ha messa su. Esatto. Foto. Quindi è stato proprio un lavoro in progressione, prova dopo prova, facendolo anche dal vivo. Abbiamo visto che ci stavano bene dei due elementi associati insieme per poi riportarla di nuovo al tempo mid e lento, e così è venuta fuori l'esperienza segna. Questa sicuramente è stata... È stato l'input giusto per elaborare per questo progetto. Oltre a tutto l'album. Certo, hai avuto difficoltà ad elaborare un album simile di 65 minuti, un concept album, già possiamo dirlo, un concept. Sì, sì, sì. Come l'hai pensato? Ci ha dato tanto tua mano tuo fratello che ha elaborato anche lui qualcosa, qualche testo. Sì, ma lui vuole negare, ma non può negare l'evidenza. Sicuramente, come dicevo prima, ci confrontiamo spesso, quindi sicuramente c'è il suo zampino in mezzo ai testi, non lo nego. Musicalmente, come, cioè, tu musicalmente hai dato una traccia, poi gli altri ragazzi hanno sistemato le cose, vi siete trovati, avete costruito, avete allargato il raggio d'azione. Tendenzialmente porto la base già definitiva, poi tutte le, come dire, le sfumature e variazioni. Comunque le soluzioni alternative vengono fatte su idee che ho già più o meno pensato. Quindi sì, i ragazzi coaudio vanno il lavoro, però sì, arrivo già con un lavoro quasi preconfezionato. Sì, il concept sicuramente è stato complesso nella sua formula definitiva, portarlo così come è nel CD, però tutto sommato è stato positivo. Mi fai pensare alla cosa e dico, però forse anche no. Cioè, certo, sono, certo. Sono 13 brani che tutto sommato 65 minuti. Sì, 65 minuti belli, interessanti. No, dico, meglio così. Io l'ho fatto con leggerezza quasi. Sono arrivato a fare 65 minuti senza sentire il peso. Senza il peso, minuti. Il peso chiaramente. Perché vabbè, ero partito dall'idea che volevo fare 8 brani come i vecchi LP. Invece erano stati 4 brani, 4 molti brani. Di più. E alla fine invece beh. 13 più 3 bronze. Ci sono i tre ospiti, quindi esatto. 16 praticamente. Un corposo serie di brani. E l'ultimo disco vostro era di che era datato? 2003. Quindi a cavallo tra il 2003 e il 2004. Quindi sono passati quasi 7 anni praticamente, circa. Cioè un bel percorso musicale. Cosa è cambiato rispetto a quella volta, a quel periodo? I musicisti sì, d'accordo. E anche la predisposizione, la voglia di fare. Sì, forse anche una maturità, una maturità maggiore che a volte penso se l'avessi avuta prima magari sarebbero cambiate certe cose rispetto ad oggi, però vabbè, è inutile con i secondi, certo, ma non si fa niente. Siamo qui oggi, anzi forse grazie a quello che è accaduto allora siamo arrivati a produrre e a fare quello che abbiamo fatto oggi, quindi tutto sommato... È stato un percorso positivo in ogni caso. Beh, ti dico, ci sono state belle cose negative, come certo. L'esperienza segna, che segna negativamente. E comunque beh, tra il 2003 e il 2011 abbiamo prodotto sì questo disco, ma nello stesso tempo abbiamo creato un'etichetta digitale. La citiamo questa etichetta? La Jost, che comunque si muove. È un progetto che nasce anche quello. È un progetto che esiste tangibilmente a livello nazionale e insieme a Massimiliano praticamente stiamo seguendo di soluzione e comunque anche di altre band emergenti. E tutto sommato su iTunes... come dire, una realtà consolidata, se uno ci cerca ci trova bene, questa è una cosa molto quindi positiva. Diciamo siamo stati un po' più fermi col gruppo che come produzione dedicata, però avete allargato il progetto, ma è difficile portare avanti un progetto di questo genere, un'etichetta indipendente. Sì, non è semplice, però l'indie è l'unica soluzione. È l'unica soluzione per essere indipendenti, cioè totalmente lontani da certe pressioni eccetera. Sì, che può avere però un riscontro anche negativo. Sì, sì, sicuramente. Cioè, ogni giorno tu devi alzarti e pensare a pensare quello che devi fare. Cioè, non è mai arrivato il giorno, la fine. Esatto. Ogni giorno ti devi reinventare, devi creare cose nuove. E quindi sì, essere indipendenti forse è bene da un lato, dall'altra comunque crea comunque sempre un lavoro costante. Cioè, perché musicista è un lavoro a tutti gli effetti. Il discorso solito in Italia che si fa, che si discute anche con Agostino, parlavamo, il musicista è un lavoro, c'è poco da fare, se lo fai seriamente è un lavoro a 360 gradi tutti i giorni in ogni qualsiasi momento. Però spesso ti... mi allaccio questa cosa, ti criticano se tu parli di musica, quindi l'arte, no, sì. L'arte non è possibile, l'arte deve essere tipo solo un sentimento, e io gli dico sì, ma con i sentimenti tu ci vivi, ci mangi? No, non ci mangi assolutamente. Allora credo che ci sia da mettere un po' sul piatto della bilancia tutte e due le cose e trovare un equilibrio. Io non dico che uno debba essere speculare, certo, con la propria arte, però comunque devi trovare il suo equilibrio per dire ok, posso riuscire a viverci, perfetto, allora continuo e ogni giorno mi reinvento, eccetera. Questa è una cosa bella, interessante. No, quindi vabbè, diciamo, rilacciandomi al discorso della produzione, eccetera, il disco è stato prodotto con Jost e distribuito da Audio Globe a livello nazionale. Un'ottima distribuzione, quindi. E in esclusiva con iTunes, quando è uscito il 15 maggio, per un mese, appunto su iTunes distribuito e poi in tutti gli store digitali. Benissimo, quindi è ricepibile assolutamente, senza nessun problema. Ok, io proporrei questo, facciamo sentire un altro pezzo da disco e poi cominciamo a suonare. Cosa hai scelto come traccia adesso? Allora, abbiamo scelto quello che poi è il singolo che abbiamo deciso di portare avanti, che è anni 70. Lo fai, in che versione la fai sentire? La tua quella, versione? Quella con Mao. Quella con Mao, che è molto interessante. Okay. Hai scelto la traccia numero 15? La numero 15, anni 70. Ballando sopra Spot. La GMG 2011 a Madrid è anche su Blu Radio Veneto. Ogni giorno collegamenti con la Spagna e i nostri giovani che partecipano alla Giornata Mondiale della Gioventù. Madrid 2011, fino al 19 agosto alle 14.30 e 20.30 e in podcast su bluradioveneto.it. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Fascia oraria chiamata Rock Wave con Maurizio Calzavala, perché lui tocca per forza, perché lui è la sua giornata. Sì, ti ho segregato. Però mi ha prelevato e mi ha voluto qui in regia per presentare questo artista che ci viene da Mestre ma abita a Roma. Esatto. Che diciamo è un terzo di una band che si chiama Soluzione. Ci sta presentando questo disco molto bello, molto elettronico, ma molto carino. Vi ricordo i nostri numeri telefonici con in studio, è lo 049 875 6 423, mentre per quanto riguarda gli SMS, per mandare qualche info, qualche domanda, se volete un saluto, quello che volete, insomma, al nostro artista, vi ricordo, è il 346 23 20 033. E devo salutare tre ragazze rock che ci sentono tutti i mercoledì, oltre agli altri giorni, ma specialmente il mercoledì, che sono la Nicoletta, la Patrizia e la Silvia. Ma non dovevano venirci a trovare una volta. Non è mica finito l'anno, c'è un po' di mesi ancora. Ok, parliamo di questo singolo che è molto frizzante, ma ti ha dato proprio un'accelerazione, possiamo dire, sì, così, quando, Luca. Quando l'ho ascoltata la parte registrata ho detto, caspita, non avevo fatto. È molto frizzante, positivo, accattivante, sì. Giustamente è stato... Il testo è interessante, non è così frizzante e accattivante, il testo è di un certo tipo, ti fa pensare, però la musica trasporta. Sì, sicuramente è orecchiabile, molti l'hanno definito pop. Sì, pop, tra virgolette. Però giustamente, come dici tu, il testo ha un certo peso. Ha un certo peso, ma tutti i dischi, tutti i pezzi di questo album, dal punto di vista del testo, hanno un certo peso. Però magari anni 70 è quello più frizzante, sì, come dici tu, sì, rispetto a tutto l'altro, sì, certo, il resto dell'album che è più umbrato. Sì, esattamente. È stata una scelta immediata di scegliere il singolo questo, oppure è stata una scelta più ponderata? Ma vabbè, diciamo che proprio per la forma proprio che aveva di 3 minuti e mezzo e il fatto che ci fosse una collaborazione importante come Mao, abbiamo scelto giustamente di ok, può essere rappresentativo? Sì. Il testo col giusto peso, sì, allora abbiamo deciso. Ok, di... sì, sono 3 minuti, sì, una volta si usavano i 3 minuti e mezzo, sì. Saremo 3 minuti e 40. Beh, diciamo che oscilliamo. Sì. Oscilliamo, sì, su questo. Perché ancora adesso sai a Sanremo c'è lo standard di 3 minuti e 40. Avete mai tentato voi di andare a Sanremo inutilmente questo flash? No. Non è una cosa che vi riguarda. No, riguarda. No, è una cosa che... Cioè, si arriva sicuramente a un'esperienza. Di band indie, anche la Cruz attraverso Giovanardi sono andati a Sanremo con un pezzo meraviglioso, tra parentesi. Sì, siamo ottimi amici anche con lui. Però molte altre band, Blu Vertigo, esatto. Anche Subsonica. Anche Subsonica, gli After Hours sono andati. Sì, quindi... qualche momento c'è stato di apertura. Sì, poi basta. Sai, ci sono determinati standard da rispettare. Lasciamo perdere una parentesi, la chiudiamo e ripariamo, sì. Andiamo a riparlare di questo pezzo, di questo singolo, di questo accattivante, frizzante, fa muovere la gente. Da vivo l'avete già eseguito con Mao? Ah no, non c'è stato ancora. Non c'è stato ancora tempo. Poi probabilmente quando magari dalle parti di Torino andremo quando a fare passerete, qualche live, sì, un po'. Sì, ma però come band l'avete già seguito? Sì. Che riscontro ha avuto con il pubblico? Beh, dipende. No, si sono mossi, cioè c'è stato un... Vabbè, sì, gente comunque che la canticchia subito dopo aver fatto un concerto, dice, ah, bella quella canzone, mi è rimasta impressa, sì. E questo è importante, no? Cosa sì, dici? Sì, diciamo che, come dire, è il motif è stato centrato, ecco. E musicalmente come l'ha inventato? Sempre nella stessa maniera come il precedente, come la title track, oppure è nata in un'altra maniera? anni 70. Te le ricordi? Sai che effettivamente... È un buco, è un buco. Massimiliano ti passa... Sì, è il pezzo più dark dell'album, ecco. Giustamente. Massimiliano sta facendo il gobbo, no? Sì, Massimiliano fa da coordinamento, lui ha detto che vuole fare solo il coordinamento, e dopo alla fine parlerà. La fine quindi verso mezzanotte, spero un po' prima. No, ma anni 70 è andato dal ritornello, avevo proprio buttato giù la strofa. Avevo visto proprio per dai, ridere. dimmi, è interessante sapere, la gente deve capire come si fa un pezzo, secondo me. Farà ridere, ma Scooby-Doo, il nipote di Scooby-Doo, che faceva potete piccoli. E da lì mi è rimasta, ma proprio da bambino mi è rimasta questa cosa qua. E poi nel tempo l'ero buttata giù come idea, e da lì proprio è nata anni 70, dalla volontà, dalla forza dei giovani che potrebbero cambiare un mondo che tanto costano a me. E quindi da lì poi si è sviluppato tutto quanto. Bene, è stato un pezzo azzeccatissimo. Proprio i pezzi azzeccati, 22:37 è l'ora di suonare, cosa dice Agostino? Dipende dal nostro artista. No, se dipende, vuole. Dipende, non dipende da, deve suonare e basta. Deve suonare. Quindi suoniamo, abbraccio la chitarra. Ok, è una cosa fondamentale. Eccola qua. Cosa ci fai? È un sospiro positivo però, sì, Luca. È di rilassamento. Esattamente. È zen. Facciamo la versione ridotta di L'esperienza segna, che è la Tetto 3, sì, che prima abbiamo ascoltato in acustico. Benissimo. Ci sono cose che non riesco più a dimenticare. L'esperienza segna ed io so che non sarò mai più pulito. Pulito, oh, oh, oh. Per mano, guidami. So che non ci sarà più nessuno ad aspettare me. Io lo so che ogni tramonto è l'immagine del mondo che mi avvolge. Che ogni tramonto è l'immagine del mondo che io osservo, che ogni tramonto è l'immagine del tempo che non torna più. Avere ancora occhi da bambino, osservare la gente, non contare ma il resto, fidarmi dei loro discorsi pulizi. Portami per mano, guidami. So che non ci sarà più nessuno ad aspettare me. Io lo so che ogni tramonto è l'immagine del mondo che mi avvolge. Che ogni tramonto è l'immagine del mondo che io osservo. Che ogni tramonto è l'immagine del tempo che non torna più. In una tua intervista hai detto, e questo si rilascia al pezzo che abbiamo sentito adesso, è un lavoro attento alla melodia, e questo era un pezzo attento alla melodia, soprattutto nel ritornello. Sì, assolutamente, qui ancora di più rispetto alla title track dal disco, perché questa è una versione acustica, è più ridotta e quindi più attenta possiamo ripetere, alla melodia. Beh, sì, beh, diciamo la struttura da cui poi si è sviluppato tutto il brano era la chitarra insieme alla voce, quindi giustamente nella mia idea di canzone dovevo trovare un connubio tra le parole e gli accordi buttati giù. Dopo cos'altro dire? No. Poi c'è un'altra domanda che ti hanno fatto e adesso te la voglio fare io. Abbiamo già parlato microfono spento, adesso ne parliamo a microfono aperto. Tu hai detto testuali parole: per produrre un disco bisogna, adesso, a oggi, bisogna essere pazzi. Ah sì. In primis lo fai perché ti senti di farlo nel migliore dei modi, senza certezza che a qualcuno arriverà il tuo messaggio. Ma è arrivato il tuo messaggio, è arrivato a noi, è arrivato, il disco è stato prodotto, è stato distribuito, è arrivato assolutamente, si è superato quella scoglia di pazzia. La pazzia non esiste più, c'è la certezza delle cose. Ti devo dire, sì, davvero, mi ha fatto anche molto piacere, l'ho riscontrato soprattutto tra gli addetti del settore. Ai settori. Sì, praticamente c'è stata una risposta positivissima e mi ha fatto molto piacere perché veramente non me l'aspettavo, o quantomeno mi aspettavo ne parlassero, ma non in questo modo. Sì, hanno premiato il tuo coraggio, secondo me, hanno premiato la tua volontà di la tua voglia, la vostra voglia di fare, di portare avanti un discorso personale al di là di tutto. No, cosa dici? Non so se hanno proprio, cioè, hanno messo. No, io, questa è una mia idea, chiaramente. Okay. È una mia idea. Forse hanno ascoltato il disco e al di là poi del coraggio che abbiamo avuto di produrlo, hanno dato comunque un giudizio sul contenuto. Sì, perché un disco in cui, come abbiamo detto, si intrecciano tanti momenti, c'è il pop, certo. C'è il dark, c'è la new wave, anche quella. Sì, sì, assolutamente. Molti hanno detto, certo, alcuni pezzi discutibili, però nella sua totalità. Comunque, sì, discutibili perché se ne può discorrere, di trovare qualche addetto, qualche collegamento, no? Discutibili nel senso negativo, però. No, nel senso che hanno tutti, cioè ognuno, sì, certo, ha i propri gusti. Ha un proprio interesse, un proprio gusto, giustamente. Quindi ci sono degli equilibri che possono essere più o meno, avere un certo peso. Ma secondo me è importante per l'uso delle tastiere, che non è stato invasivo, è stato di collegamento, secondo me. Cosa dici? Ti ringrazio, ma era stato proprio un lavoro meticoloso, scelto proprio da me. Non è che voglio vantarmi di questa cosa, proprio come l'esperienza passata forse mi ha dato la possibilità di arrivare a una maturità tale che non è ancora è lontana, chissà se arriverò mai. Beh, una maturità che sì. Che è lontana, sì, però no, proprio lontana. Già questo disco è un disco maturo, secondo me. No, però comunque trovare il giusto equilibrio, non troppo elettronica, perché anche ascoltando molti dischi. Sì, tu eri un amante di Depeche Mode, sì, non li hai dimenticati, però li hai fatti tu, praticamente, hai portato avanti una tua linea musicale. Beh, sicuramente, sì, quello lì è nato spontaneamente. Poi ovviamente si affinano le armi lungo il percorso. Si affinano le armi lungo il percorso suonando soprattutto dal vivo. Sì, quello se ti rendi veramente conto se le cose vanno esattamente come ti aspettavi. Dicevi che i pezzi che sono in questo disco li avevi provati prima dal vivo, li avevi già provati praticamente, li avevi già elaborati. Sì. È una bella palestra il live, cosa dici? Beh, è fondamentale, non deve mai mancare, perché spesso pezzi che sul disco funzionano benissimo, dal vivo ti rendi conto che non funzionano. No, cioè, anche cambiandogli il tempo, anche la tonalità, è proprio, sono da disco, e altri invece sono proprio da live. È bello così, è interessante. Sì. Si dovrebbe fare sempre così, provare prima i pezzi dal vivo e poi incidere l'album. Sì, una volta si faceva così. Sempre citando i Radiohead, esatto. Il loro disco, adesso non mi ricordo quale nello specifico, l'hanno proprio, senza dirlo al pubblico, l'hanno provato. Provavano canzoni così e poi hanno fatto la registrazione in studio. Bene, una cosa molto positiva. 22:46, abbiamo ancora tempo. No, guardo sempre l'orologio così mi oriento. E passiamo a un altro pezzo dal disco adesso. Che traccia abbiamo scelto adesso? Abbiamo scelto Cosa dire. Cosa dire? Lo puoi presentare prima stavolta. Sì. Parla del potere della parola, di quanto ci si debba, tra virgolette, preoccupare di quello che si può dire senza sparare a zero subito. Quindi meditare, cercare di dire le giuste cose nel modo migliore, perché qualcosa detta male, troppo frettolosamente, può generare delle cose. Sì, esatto. Ok. Quindi la Cosa dire, la traccia numero 4. Benissimo. Mm-hmm. Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Stiamo piacevolmente conversando con Luca. Abbiamo sentito il pezzo, che è un pezzo rock, c'è poco da fare. Il rock viene fuori, ma è giusto che ci sia una componente fondamentale dei Soluzioni, al di là della musica elettronica, ma non è, al di là del tappeto elettronico, possiamo sì, dire. Sì. Il rock è fondamentale, questo era un pezzo rock. Tu dicevi con qualche addentellato, qualche amore ai Plassivo. Sì, c'era qualche amore ai Plassivo, ma questo non vuol dire assolutamente niente. No, no, mi piacciono moltissimo i Plassivo. Comunque sì, sicuramente è rock. È rock, fa bene alla salute. Il rock fa sempre bene alla salute. Abbiamo cominciato la trasmissione prima, c'era il pezzo storico dei Rolling, quindi è un bel invito per parlare due ore di musica. Sì, sì. Parliamo un momento di questo, non una collaborazione, di questo incontro che hai avuto con Sgalambro un po' di tempo. Mario Sgalambro. Che praticamente quello scrivi i testi per Battiato. Sì, beh, tra la produzione dell'esperienza e altre cose. Che dopo citiamo anche le altre cose che avete fatto. Ne avete fatte tante interessanti. Niente, abbiamo partecipato a un festival della filosofia tenutosi a Modena, in cui bisognava praticamente musicare un testo del filosofo Mario Sgalambro, e abbiamo vinto questo concorso. del tutto inaspettato. Io ho preso il brano, il testo. Il testo? L'ho scisso, ho trovato quelli che per me erano dei ritornelli, l'ho musicato, l'ho registrato e gliel'ho mandato. Da lì poi, al di là del festival, ci siamo sentiti tramite telefono, proprio così, a voce. Mi ha fatto i complimenti e da lì poi da cosa nasce cosa. Siamo andati a trovarlo insieme a Massimiliano a Catania. Abbiamo comunque avuto modo di discorrere piacevolmente perché è una splendidissima persona. Posso usare qui? E niente, poi un'idea di fare un progetto insieme, a lui è piaciuta moltissimo e quindi abbiamo iniziato a lavorare, così come per la canzone che abbiamo musicato, la poesia che ho musicato sua, è Invasione di Campo. Da lì abbiamo iniziato a lavorare su altri testi suoi e per adesso abbiamo lavorato 3 brani e più una serie di letture da suoi libri che riguardano varie tematiche. E quindi il progetto. Quindi è un progetto che è ancora in piedi, che si sta ampliando. Sì, oscilla da, diciamo, pura elettronica, stile Battiato anni 70. Anni 70. Messe le Gladiatori, quello là in cui suonava con l'organetto per terra. Io l'ho visto molti anni fa, eravamo in 100, mi pare. Quindi poca gente, pochissima gente. Sì. Lui aveva un organetto, si andava a Messe le Gladiatori, che Messe le Gladiatori era in due facciate, una facciata che aveva un solo titolo e un solo brano musicale e l'altra facciata la stessa cosa, come quello di Yoko Ono e John Lennon molti anni fa, prima. E lui aveva l'organetto vestito tutto di rosso, con tappeto rosso, l'organetto piccolino, e lui suonava. Aveva già all'epoca, non aveva ancora la voce del padrone, quindi aveva il disco da 1 milione di copie, aveva i dischi precedenti sulle corde di Ares, quello sperimentale, Pollution, e c'era quella fase di transizione con la... Lui ha vinto il premio Stockhausen, quindi una persona di grandissimo livello, e faceva questa musica molto particolare. Eravamo tutti là a sentire questo personaggio che ha cominciato a facendo una cover di Rientis, lo sapevi? No, ecco, te lo dico io. Molti anni fa era arrivato a Milano e una volta si usavano i singoli con le riviste musicali, le riviste e plexiglass, esattamente. Lui aveva inciso un plexiglass, adesso è rarissimo. Sì, l'avevo letto, non sapevo di questa cosa. E lui ha inciso anche la traduzione di Rientis, Lacrime e Pioggia. Molti anni prima, sono cose che capitano. E poi ha lanciato uno come Yuri Kamisaska, straordinario personaggio che cerco un sacco di volte di intervistare, ma non riesco mai a intervistare. Un personaggio straordinario. Ma ritorniamo, questo è il progetto con Scalammo, ma prima altri progetti interessanti che non abbiamo citato, dal 2003 fino al 2011. Beh, praticamente abbiamo partecipato a Indipendente, che è una compilation fatta dalla Edel, in cui abbiamo inserito Tutto e Nulla, che è apparso sul nostro primo EP, Ciliegia, e quindi abbiamo inserito un brano lì. Dopodiché abbiamo partecipato a Midem, era una compilation detta dal MEI, dei, non so se erano 10 o 13 gruppi, diciamo la migliore musica emergenti italiane all'epoca, all'estero. Bene. E con Facili Forme. Poi abbiamo stretto un'amicizia con Danze Moderne, una piccola etichetta con la quale abbiamo fatto uscire Facili Forme e Infettami, che erano, diciamo, un pre-inizio di questo. Sarebbe stato poi l'esperienza segna. E niente, poi... E poi parliamo anche di video, discorso dei video. Sì, beh, video... Ah sì, un'altra cosa importante, sì, stavo dimenticando, una collaborazione con Arlo Bigazzi. Avete fatto un sacco di cose praticamente, quindi non siete stati fermi nonostante gli anni, nonostante il cambiamento di formazione, hai continuato a lavorare, a produrre, a fare qualcosa. Sì, una collaborazione per aiutare la popolazione dell'Abruzzo per il terremoto e abbiamo fatto questa, saremmo stati 100 e passa artisti, bellissimo, per una canzone soltanto in cui ognuno metteva un suo contributo, diciamo. E niente, fino ad oggi, poi appunto quindi siamo arrivati a produrre l'esperienza segna. Allora, dei videoclip ne parliamo dopo, perché vorrei far sentire ai nostri ascoltatori la tua musica, ok? E dopo parliamo dei videoclip anche, ok? Ascoltiamo qualcosa dal vivo? Sì, esattamente, qualcosa dal vivo. Cosa ci fai ascoltare adesso, Luca? Allora, cosa ti faccio fare? Ti faccio ascoltare Facili Forme. Benissimo, ok. Allora, Facili Forme. Che sembra una canzone dei CCGP. Ah sì? Sì. Quei titoli un po' particolari che ricordano certe cose che Ferretti faceva, sai? Ferretti è sempre stato un personaggio molto interessante. Mi hanno associato qualche volta a Ferri. Quel tipo, non sono andato molto distante allora in questo momento. È una cosa positiva, Luca. Sì, sì. Assolutamente, un artista geniale. Grande gruppo. Comunque. Esattamente. Che poi a volte dammi a dire qualcun altro tiri fuori il mio fare di riflesso, ma non so se sia poi bene o sia poi male. La potenza del parlare mi impaurisce un po', ma non so se queste cose rimarranno mie. Ma non so se queste cose rimarranno mie. Se la disattenzione crea facili e scontate forme di mediocrità, e io lo so che tra le mie infinite cose manca un altro po' di fiato e poi lì ci sarò, ma non so se queste cose rimarranno mie. Non so se queste cose rimarranno mie, rimarranno mie. Mentre numerosi passeranno i volti che, numerosi passeranno, oh, con selezionata cura io ringrazierò. Queste cose rimarranno mie, ma non so se queste cose rimarranno mie, rimarranno mie, rimarranno mie. Anche questo è un pezzo decadente, secondo me, in questo momento. L'hai fatto molto oscuro nel senso positivo del discorso. Alla Thomas Mann. È la Thomas Mann, esattamente. E mi veniva in mente una cosa di chiederti. Adesso mi è venuto il flash. Kubrick, la copertina del disco ricorda un famoso film di Kubrick. Sì, sì. Che cos'è? Barry Lyndon. Esatto, Barry Lyndon. Adesso mi viene in mente. Adesso... E ora scopriamo questo mondo particolare, questo amore per Kubrick, o citazione di Kubrick. Ma no, amore, amore. Amore, amore. Sì, è nato in tenera età guardando Arancia Meccanica, penso 11, 12, 13 volte. N volte. È rivenuto anche ultimamente con occhi e come si dice, coscienza diversa. Certo. Ma comunque sicuramente l'amore incondizionato per un regista che comunque era sperimentale, amava sperimentare e soprattutto con tecniche all'avanguardia all'epoca. E tutto l'album, comunque, al di là della copertina, cioè ha dei riferimenti. Ha dei chiari riferimenti a Kubrick e a film nello specifico. Niente. Quindi possiamo dire che in soluzione possono benissimo fare anche una colonna sonora di un film ideale. Cosa dici? diciamo che non abbiamo mai separato la musica dai video dalla cinematografia. Visto che siamo arrivati anche ai video, parliamo anche di questi, che sono molto importanti. Sì, diciamo che è sempre stata una mia idea, non so se riuscirò mai a portarla avanti. Comunque però l'idea di musicare film, cortometraggi sono stati fatti e grazie a questi siamo andati anche un po' in giro. Dove siete andati? La gente deve saperlo, dai. Piccole cose, no, in giro per il mondo. Piccole cose, in giro grazie per il mondo. Alle collaborazioni dei video, nello specifico dell'esperienza Segna. Ma volevo spendere due parole proprio nello specifico per quello che riguarda i video. Perfetto. Che è nato come progetto parallelo, che coadiuva sicuramente tutte le canzoni, ma hanno un'anima propria ai video. Sono stati praticamente scelti dei brani e proposti ai video, ai videomaker, ai filmmaker, penso tutta la penisola italiana, più o meno abbiamo coperto quasi tutta l'Italia. Bene. E queste persone, completamente libere, carta bianca totale, hanno iniziato a macinare idee e poi ce le hanno proposte e hanno fatto delle opere per me bellissime. E ovviamente non tutti quanti i brani sono stati, diciamo, tradotti in video. In video. Comunque ci stiamo portando avanti questo progetto e speriamo che prenda una forma e ci insomma porti anche verso altri lidi. Le canzoni che abbiamo musicato e fatto i video sono tutte Nulla, alta velocità, Anni 70, che è il singolo con Mao, Infettami e Facili forme, che è la canzone che ho appena che è appena seguito dal vivo. E niente, con alcune di queste, Infettami, siamo riusciti ad arrivare, come per dire, sigla finale di Blob su Rai 3 qualche mese fa. Però per poi arrivare anche a partecipare a festival internazionali come a San Paolo del Brasile e a Berlino, dove Massimiliano, che non vuole partecipare, è stato ospite e ha parlato. Che non vuole dire niente. Ma perché non vuole dire? Ha preso il microfono, l'ha tenuto fra le dita, come a voler dire no, non Maurizio, alzaglielo, che così parla. Ecco, esattamente. Facciamo un piccolo periodo. Massimiliano, sei stato citato da tuo fratello così ampiamente, adesso qualche parolina la puoi anche dire, dai. Ma solo ed esclusivamente per i video. Facciamo solo per i video. Buonasera a tutti. No, e poi grazie, ti faccio partecipare anche di un'altra cosa. Che cosa c'è da dire sui video? Che, come diceva Luca, l'idea è nata quasi per caso. Abbiamo detto, perché fare un video di una canzone in cui c'è il solito gruppo che suona? Chiediamo a tutte, cioè, perché l'idea della Giost, in realtà, che è poi la nostra associazione etichetta, è sempre stata quella di far interagire le varie discipline. Abbiamo sempre lavorato con disegnatori, videomaker, fumettisti, cioè ballerini, potremmo citare persone all'infinito. Quindi in questo forse noi cerchiamo di emulare un po' delle persone tipo Battiato, che sono dei miti per noi. E niente, qui in questo caso c'era capitato, comunque, perché quando eravamo piccoli abbiamo provato a girare dei video, di conoscere anche altre persone che li girassero, e li giravano anche meglio di noi. puoi citare queste persone? Vuoi farlo tu o faccio io? La prima collaborazione è nata proprio a Milano con Desire Sibiriu e Luigi Rizzo, che sono due pubblicitari proprio. Loro hanno prestato la loro opera gratuitamente, insomma, perché il progetto bisogna dirlo, è anche low budget, no budget, e hanno realizzato Tutto e Nulla. Un omaggio degli anni 80, proprio sperimentazione video, ambientato poi in una marghera, nelle fabbriche dismesse di Marghera, sulle banchine. Poi chi c'è stato? Antonio Giuseppe Valenti, che è un regista palermitano, nonché il direttore di Acque Dolci Film Festival, che è un festival lo stesso internazionale, che ci siamo conosciuti addirittura mandandogli Tutto e Nulla per caso. Lui ci ha telefonato e ha detto: cavolo, ci piace tantissimo queste collaborazioni che Posso fare un video anch'io. Ha fatto forse il video che a livello emozionale è il più sconvolgente e più toccante, ed è bellissimo, e io spero che senta questa intervista, perché lui non aveva ancora sentito tutto il disco e ci ha telefonato l'altra sera commosso quasi. Quindi vi dico, sono nate anche delle relazioni umane stupende. Bene. E consiglio veramente di vedere il video di Facili forme che Luca ha appena suonato, perché forse si legano proprio immagini e musica, cioè in un modo proprio indissolubile, togliendo il respiro quasi. Poi altro video da citare, Infettami, che nonostante il titolo provocatorio, ma d'altra parte proveniamo dagli anni 80 e siete pacchettari praticamente. Internos. Praticamente lì è stato coinvolto uno dei migliori forse animatori italiani, è un corso di animazione anche lì carta bianca, ovviamente ci hanno proposto delle soluzioni, loro hanno detto ci fate venire in mente i video dei Tool con questi personaggi che si compongono, si ricompongono in animazione, e quindi è stato creato tutto un pupazzo animato, un laboratorio che è durato un mese, e con questo film abbiamo vinto Nickel Clip, premio della critica e premio del pubblico. Siamo andati alla 32esima mostra di San Paolo del Brasile e in concorso, anche se ahimè non abbiamo vinto, però rappresentavamo l'Italia insieme a film come Il Divo e Gomorra. Esatto. Quindi... poi siamo stati invitati a Berlino a Interfilm in due sezioni, Movit e Bell'Italia, e vi dico un'emozione unica, anche perché veramente da Festival del Cinema. E con gli altri comunque siamo bene o male, abbiamo raggiunto finali, Music Clip Barcellona, Balki Bulgaria, a Venezia, Porto Rico, sì, il decimo circuito off internazionale, lo stesso, sì, insomma, grandi piccole grandi soddisfazioni, anche perché poi questi video in realtà non sono mai tipo passati in TV, forse il Mail lo ha fatto passare su Red TV, esatto. E non mi ricordo se un canale tematico anche, quindi cioè, diciamo che sono per lo più inediti assolutamente, anche inediti. Se e cito l'ultimo poi per il momento, in realtà esistono anche altri due o tre video che sono in fase di ottimizzazione, perché purtroppo proprio questa libertà non sempre andava in linea con l'album, certo. E, l'ultimo anni 70, che lo stesso ha girato un'altra Anna Falciasecca di Milano, e quello credo che sia su internet, sia visualizzato tantissimo su YouTube, la nuova televisione, certo, la nuova televisione. È una cosa straordinaria, sì. Praticamente un continuo movimento, sì, lì poi ci sono un sacco di utenti che tutti i giorni guardano, scrivono commenti. No? Bello, piacere. Molto molto positivo, assolutamente positivo. Abbiamo scoperto un mondo che, sì, io avevo letto, però non pensavo così tanto, è una cosa molto molto interessante. Sì, è work in progress comunque, lavorando, perché vorremmo comunque completare l'intero album. Bene, bene, e sono 16 pezzi, quindi sono molto interessanti. Beh. E adesso facciamo una cosa di questo genere, sono 23.08, noi di solito abbiamo un giochino. Però aspetta, facciamo ascoltare una canzone. Sì, chiaramente, abbiamo un giochino, però facciamo sentire un pezzo. Dai. Facciamo ascoltare Pensiero in Movimento, la traccia numero 10. We'll be right back. sapendo ci avevo mai pensato. A mezza. Essere obiettivi. Rimbocchiamoci le maniche. Più ossigeno, più ossigeno. Pensiero in movimento. Radio. Rock Wave, l'onda del rock. 23 e quasi 14 minuti di questo mercoledì 10 agosto 2011 con Maurizio Calzavara e con Agostino alla regia, Agostino Esplore, a presentare questa band Soluzione, ma in una terza parte praticamente di questa band. Vi ricordo i nostri numeri telefonici come sempre, che per telefonare in studio allo 049 875 6423, mentre per quanto riguarda i vostri sms vi ricordo il 346 23 20 033. Le nostre frequenze sono 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza. Siamo in streaming audio, siamo in streaming video. Abbiamo il nostro sito, vi ricordo anche abbiamo anche due pagine su Facebook. Una è semplicemente Blu Radio Veneto, l'altra invece è Blu Radio Veneto trattino Rock Wave. Lì si parla soprattutto di rock, principalmente gestita e curata dal nostro direttore artistico che è Alberto Prisco, che salutiamo. Salutiamo, che grazie a lui stasera siete qua. Grazie, io mille. Ho partecipato anch'io, ma è stato lui che ha voluto fortissimamente e ha fatto bene la tua presenza. La ringraziamo doppiamente. Esattamente, allora. La tua presenza. Abbiamo parlato di collaborazioni tante, però ce n'è una un po' particolare, adesso ci diamo Luca. Beh, Gowin Curana. Esattamente. Il nostro editore, amico, lo abbiamo conosciuto ancora ai tempi della compilation della Edel. Indipendente, da lì è nata una collaborazione, ma non era ancora in piedi l'esperienza Segna, è nata tutto così, da uno scambio di mail, qualche telefonata o proposta di collaborazioni alternative. Poi oggi siamo tutti i giorni in contatto telefonico, email o Skype, ecco, ormai adesso non ci sentiamo. Sì, adesso c'è lo Skype praticamente, è una cosa positiva. Cioè, il discorso che state portando avanti voi è una cosa interessante, perché c'è una collaborazione. In Italia spesso e volentieri queste cose non succedono. Beh, c'è molto... C'è molto egocentrismo, posso dire, sì, questo. Sì. Ognuno pensa al proprio orticello. Sì, sicuramente, forse... Si sentono tutti troppe prime donne, no? Esattamente, no. Esattamente, può capitare. Non lo so. Questo, invece, non so se sei d'accordo, tu sei stato anche all'estero. All'estero questo non succede, c'è più collaborazione fra i musicisti, anche i grandi musicisti collaborano con quelli minori tra virgolette. So. Non lo so. Massimiliano non è proprio d'accordo. Adesso alzi il microfono, adesso rispondi a questo tuo negare, in senso... Cioè, delicato, però non hai detto proprio questo. Cito proprio una delle poche cose che conosco. Allora, gli Stereophonics, quando erano ancora sconosciuti, chiesero a Rod Stewart di incidere un pezzo con lui e Rod Stewart gli disse di no. Poi gli Stereophonics diventarono molto famosi, Rod Stewart li invitò a una serata di beneficenza e loro gli risposero no, grazie. Quindi c'è un po' tutto il mondo e il paese. Sì, sebbene, forse, scusa se... magari il fatto che la professionalità sia maggiore soprattutto nei paesi anglosassoni, cioè la musica, come dicevate prima, è un vero lavoro lì, consente in un certo senso di prendere sul serio un invito o comunque una partecipazione, una cosa, perché comunque non lo fai perché ti ha invitato tuo cugino, certo, o la sagra di paese, senza voler disdegnare la sagra di paese, che apprezziamo moltissimo anche per il cibo, ma è proprio perché comunque essendo un lavoro la professionalità viene prima di tutto e potremmo citare casi infiniti. Poi vi lascio, scusate questa parentesi. No, no, ma il microfono deve sempre essere vicino a non devi allontanarlo, perché adesso c'è la domanda fondamentale, perché, vero Agostino? Perché... E devi metterti anche le cuffie, esattamente. Anche se i capelli sono un po' scompagnati, va bene lo stesso, non c'è nessun problema. Ti vedono lo stesso, con le telecamere ti vedono lo stesso. Ringraziamo Roberto Baldi che ha curato tutte le telecamere, ha sistemato le telecamere di video. E adesso facciamo il giochino, cosa dici? Sì, sì, sono pienamente d'accordo. Intanto sto guardando anche le due signore che sono qui davanti. che mandiamo un caro saluto, che non sappiamo i nomi. Alessandra e Leonora. Ecco, Alessandra e Leonora, benvenute anche voi qui a Blu Radio Veneto. Allora, dicevo a Maurizio e Luca, noi quando facciamo le trasmissioni live, quando abbiamo un po' più di tempo, insomma, cerchiamo di scoprire i gusti dell'artista, i gusti musicali che vanno al di là di quello che lui fa. Certo. Cioè come lavoro, come produzione, insomma. Quindi questo riguarda anche Massimiliano, perché lo facciamo partecipe anche certo, lui è produttore artistico, ecco, è produttore in toto del disco. Immaginati di andare sulla famosa ormai isola deserta, cosa ti porteresti con te? Vabbè, che dischi? Come primo album Depeche Mode, Song Great Reward. Perfetto, quello era logico che succedesse. Secondo album Cure, Pornography. Ecco, perché hai scelto questo? Disco molto interessante. Io avrei preferito Disintegration per la mia attitudine musicale, perché lo lego a determinati eventi del mio passato, ma anche per la carica negativa dilaniante, disintegrante che ha sempre avuto lui. Sì. E quella secondo me raccoglie veramente la parte più dark dei Cure. Certo. E mi smuove, è proprio emozionale. Lui è straordinario, cambia sempre nonostante tutto. Sì, camaleontico, sicuramente. Esattamente, riesce sempre. Molto intelligente e furbo. È furbo, soprattutto furbo, certe cose molto furbo. Però la furbizia, quando c'è qualità, si può accettare. Indiscussa. Esattamente. Poi terzo? Terzo album, David Bowie, Ziggy Stardust. Adesso mi devo alzare in piedi, perché è una cosa. Visto che io ti do una bella notizia, lo sai, il prossimo anno devi starte, cioè David Bowie ritornerà in tournée mondiale, arriverà anche qui da noi, a Milano, mi pare. L'ho visto a Napoli, a Neapolis nel 1997. Che sensazione hai avuto? Io non l'avevo mai visto e non lo apprezzavo nemmeno così tanto come oggi. L'ho visto con grande interesse, proprio, veramente, cioè una band straordinaria, ma lui è proprio comunque un personaggio. Grazie. È un grande, assolutamente. Sì, sì. Perché è riuscito a calcare le scene in una certa maniera e a inventare le mode. Ma anche lui è un camaleone, anzi forse più di Robert Smith. Sì, forse Rob si è riferito assolutamente poi a lui. Poi forse anche meno tempo. Sì. Ha smesso prima Robert Smith di dare. Esattamente. David Bowie sta dando ancora. Sta dando ancora e tutti ricordano la bellezza della trilogia berlinese. Uno che ha inventato tre album simili. E ricordiamo una cosa per gli amanti del rock: se non c'era lui non c'era più Lou Reed, l'hai riscoperto, l'ha riportato com'era una tant'è volta. Che l'altro album che portava era Transformers, esattamente, è stato prodotto da lui, e lo stesso Iggy Pop deve sempre ringraziare Bowie per questo. Grandissimo. E poi quanti album devo portare? Un altro, scegliamo un altro, l'ultimo dai, italiano dai. Sì, italiano. I Blue Vertigo, Zero. Parliamo che di Morgan, una parentesi. Perché parli di Morgan musicalmente come band? Che importanza ha avuto il Blue Vertigo nell'economia dell'indie italiano, secondo te? Secondo me, come gruppo... È stato fondamentale. Sì, hanno dato la svolta in un momento in cui comunque non c'era grande... Sì, vabbè, sì. Tutta la Mescal aveva una produzione... Certo, la Mescal aveva un'ottima produzione. Però tra tutti i gruppi che aveva prodotto la Mescal, al di là della Cruz, che riguardano una cosa più intimista, certo, eccetera, quello che mi sentivo addosso veramente era il Blue Vertigo. Avevano molte idee, lui aveva molte idee. Ma poi mi piaceva ogni concerto che andavo a vedere, andavo a casa con una carica, no, devo studiare, devo fare di più, era proprio uno shake totale. Anche perché dopo ci parlavi. Sì, vabbè, al di là del fatto che poi ci siamo conosciuti. Con Morgan, eccetera. Però comunque, al di là, come ascoltatore, limitandoci a questo, effettivamente mi hanno dato una scossa notevole il Blue Vertigo. E devo dire che tutti gli album che hanno prodotto effettivamente fanno la differenza. E ci sono state delle voci che dicevano ci ricostituiamo, ma lui ha sempre detto di no. Ma forse è meglio così, secondo me, perché le ricostituzioni da un po' di tempo, qualcuno dice fatte per i soldi, qualcun altro dice perché c'è l'ispirazione. Tra ispirazione e soldi qualche volta le cose si avvicinano. Li ho rivisti quando si erano riformati un paio di anni fa a Roma. Effettivamente sì. Avevano perso un po'. Sì, lo smalto l'avevano perso. Lo smalto perso di un tempo. E... Ma poi anche lui era proprio completamente diverso, il rapporto che aveva rispetto a come era prima la band. Era una star già all'epoca. So. Sì, non so se avevano già fatto X Factor o qualcosa. Beh, l'idea c'era lì, sì, di cominciare. Adesso ritorna su Sky, su X Factor, quindi non ha perso. Chiudiamo la parentesi. Sì, chiudiamo la parentesi. X Factor è una cosa che lascia il tempo che trova. Massimiliano, tocca a te. Quattro dischi. Devo poi. Proprio. Devi proprio, si fa parte della tradizione. Beh, poi... E c'è una regola fondamentale che tu lo sai, ma te la ripeto: non si può copiare. Ah, ok. Quindi assolutamente. Potrei portare. Allora, vedo qui. Utilizzi il mezzo elettronico. Mi prendo in giro. La memoria elettronica. Allora. Come dire, omaggiando l'epoca del digitale e della masterizzazione assidua, la discografia dei Diaframma. Ah, Fiumani dopo lo citeremo chiaramente. Anche perché io lo reputo un amico, penso anche Luca, è un grande, veramente, un grande della musica indipendente. Certamente. Forse poi, più grande di tutti qualcuno dice, e il più scontroso qualcun altro dice. Quello dipende sicuro, dal punto di vista. È sempre, come dire, un'emozione divertente, avvincente partecipare a un suo concerto. È un genio, assolutamente. Poi, l'abbiamo citato prima, Battiato, perché comunque è poliedrico come tanto quanto gli artisti citati da Luca Stranieri, e credo che... Che periodo di Battiato, Massimiliano? Guarda, per me penso lo stesso, io parlo di discografia perché non generale. Mi voglio limitare, così come prima citavi Lou Reed e David Bowie, io sono un grande estimatore di David Bowie e mi piace molto la trilogia, mi piace Diamond Dogs in particolare, però sicuramente... Bowie, Lou Reed, sono una continua scoperta. Io preferisco i Velvet Underground sicuramente come formazione. Grazie, e anche mi devo alzare i piedi, certo. Devo rimanere in piedi tutta la trasmissione, citato i Velvet. No, quindi capite un po' che, e questo lo dico anche così un po' per stemperare, i nostri ascolti sono sempre stati molto eterogenei, perché potrei citare anche la musica classica, perché, tra le varie cose. Certo. Sicuramente sarebbe meglio portarsi un'orchestra, però sull'isola deserta. E poi mi porterei sicuramente questo disco di Soluzione. Mi pare giusto. e poi chiudo, insomma, nel senso che dico una cosa per correggere un attimo. Allora, io non sono il produttore, sono coproduttore insieme a Luca, che è importante, insomma, nel senso che proprio è tutta questa continuo... chiamiamolo ping pong, se volete, tra letteratura e varie arti, che un po' alla Fratelli Gallagher, però mestrini. Però siete arrivati a quei tempi. Siete arrivati a quel momento, però spero di no, assolutamente. Ogni tanto qualche scontro ci vuole. Ogni tanto qualche scontro. Beh, abbiamo degli spiriti forti, no? Certo. Sì, e... un po' troppo forti quelli di Fratelli Gallagher, secondo me. Qualcuno ha detto, hanno fatto bene, perché uno musicalmente non era nessuno, mentre l'altro musicalmente era tutto. Però i BDI allo stesso tempo non sono male. Non sono male, però sono gli Oasis spaccati. Esatto. Oserei dire che sono i Beatles spaccati, sì, John Beatles Lennon. Sono d'accordo, gli Oasis ti devono sempre d'accordo con te. E dicono che il disco nuovo dell'altro fratello sia molto più... Cioè, decisamente diverso, rivoluzionario tra virgolette, dopo non si sa, sono le voci che rincorrono, se le voci servono, dipende da che etichetta loro hanno scelto, c'è anche quello da dire, tutto fa parte del gioco, ma è un gioco positivo se la qualità vince, se la qualità non vince, ma di solito quella gente là si produce, c'è un produttore dietro di grido assoluto, sicuramente, decisamente. 23-26 adesso cosa facciamo? Vuoi suonare un pezzo? Cosa dici? Sei pronto? Va bene, sì. Facciamo, che cosa facciamo? Un bacio. Benissimo, ok. Non era preparato, ma la facciamo. Ma le cose meglio, non meglio. Preparate ero qui, sono apposta. Sì, sì. L'unica canzone d'amore dei Soluzioni. Ok. Sette giorni, anni o forse più, riesco a respirare tra le lacrime, tra offuscate frasi dette con sincerità, ma mi dimentichi cosa gira intorno a me, intorno a me. Certamente semplice toccare andare tra milioni di rinunce, ciao e grazie. Passo dopo passo cresce quello che a mio avviso non doveva più rinascere. Eleganti pose, eleganti pose, evoluzioni. Eleganti pose, eleganti pose, evoluzioni, evoluzioni. Abbagliandomi, abbagliandomi. Voglio solo solitudine, la bramosia di un bacio è poi assolutamente nulla, troppo è più grande di me. E tutto questo non ha senso perché c'è distanza, c'è voglia di rinascere. Eleganti pose, eleganti pose, evoluzioni. Eleganti pose, eleganti pose, evoluzioni, evoluzioni. Abbagliandomi, abbagliandomi, abbagliandomi, abbagliandomi. Ok, benissimo. È una ballata romantica, però proprio scheletrica. Sì, è romantica, però non è proprio romantica al 100%, secondo me. C'è sempre quel testo un po' sì, così. Sofferto. È un po' sofferto, sì, decisamente. Si sente. Ma è bello, è giusto che sia così. Anche questa è una delle tante facce di soluzione. Sì. È questa che conta assolutamente. Abbiamo già parlato di come costruisci un pezzo, però vogliamo allargarlo, perché io ho letto una dichiarazione molto interessante che non abbiamo citato prima. Molte canzoni del disco sono nate da veri e propri voli sullo strumento. Adesso voglio spiegare, cioè devi spiegare cosa vuol dire voli sullo strumento. Beh, da musicista che studia, spesso mi capita davanti allo spartito di mettermi lì e fare proprio degli esercizi, magari sulle scale, a scendere la scala, a capire... Cioè con la chitarra o col piano? Tutti e due. Con tutti e due. Però spesso e volentieri ultimamente con la chitarra. Con la chitarra. che proprio in quel momento specifico abbandono l'esercizio che sto facendo, perché magari c'è una sonorità che mi prende, mi lascio catturare e da lì poi ci torno magari dopo un paio d'ore, ma diventa quasi una cosa autistica. Ho capito. Proprio diventa una cosa, proprio insisto. Cioè devi trovare la soluzione totale del pezzo. Ma non me ne rendo conto in realtà, diventa proprio quasi una cosa, addirittura ogni tanto per far ridere, arriva Alessandra e fa, oh ma hai smesso di fare questa cosa. Cioè ti allontani da tutto praticamente. Sì, ma diventa un loop proprio. Io devo entrare proprio in questa cosa fino a quando non la sviscero a tal punto che mi diventa talmente familiare. Che allora smetto. E questa esperienza che tu hai detto è catartica. Agostino, che è qui presente, l'altro giorno, cioè la settimana scorsa, abbiamo avuto un pianista, si chiama Alberto, vero? Alberto Lupimusso. Alberto Lupimusso. Lui faceva le stesse cose che fai te con questo disegno. Cioè, quando si immergeva, proprio si immergeva nel punto di vista fisico nella tastiera, entrava dentro. Proprio. Se proprio entrasse nella tastiera. Praticamente si estraneava tutto finché non è arrivato a concludere il pezzo. È la stessa cosa. Io non t'ho visto a casa come fai. No, però l'idea è questa, è la stessa cosa. Cioè, c'è una estraneazione totale, un totale diniego di tutte le cose che sono intorno per arrivare proprio a essere dentro nella tonalità. Sì, mi rendo conto dopo guardando l'orologio che magari sono passate delle ore. Ecco. Cioè, e questo è proprio una sentenza. Vuol dire che c'è proprio un rapporto stretto con la musica, molto stretto. La musica che suono sono io sono la mia musica, la musica è una cosa sola, insomma. Gli altri tuoi due componenti, uno ama Levi, era un batterista Levi, e l'altro un batterista che ricordava molto i Jethro Tull, bassista che ricordava molto i Jethro Tull. Questo connubio Levi Jethro Tull e tu che amavi Depeche Mode, è stato bello, è stato positivo o è stato difficile il primo impatto? È stato semplice perché tutti e tre amiamo un gruppo che non abbiamo citato questa sera, che sono i Police. Ah, perfetto. Cioè, veramente. Quindi il collegamento è questo. Il collegamento è proprio stato quello, perché fatalità, senza parlarne, un giorno eravamo due a fare le prove, così è la nostra insaputa. E poi, chiaramente anche poi un'amicizia che è nata spontanea. Ecco, giustamente. Eccoli qua. Ma i Police è un gruppo, fra tante, sono venuti a suonare tanta gente qui da noi in 5 anni di Rockaway, 6 anni quasi. E molti hanno citato i Police appunto perché i Police mettevano d'accordo tanti orientamenti. Sicuramente hanno proposto diversi temi musicali, riadattandoli un po' al reggae. Cioè, reggae rock l'hanno pseudo inventato loro, hanno portato avanti loro, l'hanno fatto il successo loro. Va bene, c'è stato Bob Marley prima, certo. Bob Marley era il reggae. I Police non erano proprio il reggae, anche Clash qualche volta hanno fatto il reggae, possiamo dire un po' di tutto. Più reggae dei Police, forse Clash. Nonostante fossero più Sandinista era un album abbastanza, che aveva tanti risvolti di reggae, ma insomma è un album di un certo peso Sandinista, una volta si usava il triplo vinile, non so se ti ricordi. Tu sei giovane, però il triplo vinile te lo ricordi sicuramente. Il due sì, il triplo no. Era un triplo vinile, Sandinista sì, era un triplo vinile. Massimiliano sei d'accordo? Massimiliano conferma. Vabbè. Era un triplo vinile, aveva un certo peso anche dal punto di vista per portarlo. E una volta erano altre sensazioni. Il vinile, non so, adesso è ritornato il vinile per motivi diversi, solo per istimatori. Però anche se ho letto recentemente, l'ho detto anche in trasmissione, ma lo posso ripetere tranquillamente qua. L'anno scorso Abbey Road dei Beatles ha venduto 12.500 copie in vinile. Una cifra iperbolica se rapportata al tempo di adesso. Quindi 12.500 persone che avevano un giradischi hanno ripreso, forse per averlo in casa, per averlo come icona, 12.500 è un numero notevolissimo. Il vinile non posso dire, andavo a prendere Nice Price, mi ricordo da bambino. Anch'io, sì. Ed era una bellissima sensazione trovare il disco che, che bello, è in offerta, lo compro subito. Esatto, nei spray quelli che venivano erano stampati in linea economica, avevano così i buchi sulle coppe. Sì, esatto. Perché, sai perché avevano i buchi, no? Perché venivano attaccati come fossero delle lenzuola, così. Ah. E perché avevano i buchi, erano attaccati così. Una cosa che mi ha spiegato uno che lavorava nel settore. Esattamente, lavorava nel settore. È una cosa molto positiva. Erano i buchi per quel. Erano dischi originalissimi, però avevano i buchi per quel motivo. Ah, comunque sì, il vinile è una grandissima cosa. Peccato che la digitalizzazione abbia fatto perdere un po'. Non è che abbia ucciso il vinile. Economicamente non ci stiamo dentro. Insomma, c'è poco da fare. Sì, probabilmente sì. è più facile, sì. È più facile, non è che anche voi avete avuto i vostri costi per incidere un disco, Massimiliano conferma, visto sì, che sì. Co-produttore, mi scuso, sì, sì, certo. Però è stata una grande soddisfazione, secondo me. Sì, sì, una grande fatica, ma una grande soddisfazione. Chiaro, quando me l'hanno dato, effettivamente me lo sono proprio snocciolato, bello, bello. Parte per parte, la sofferenza, anche se tutto il booklet, la parte grafica. Certo, e la parte fra chi l'ha curato, tutto te? Insieme, in collaborazione con Giorgio Finamore, che è un disegnatore che collabora con noi da anni. Da tempo. A proposito, Luca, dov'è possibile, che non abbiamo ancora detto tutti i vostri dati, cioè il sito dove si può acquistare il disco, eccetera, eccetera. Ci dai qualche informazione per gli ascoltatori? Allora, dov'è possibile acquistare il disco? Partiamo dal digitale, su iTunes al 100%, proprio c'è la sezione dedicata. E su tutti gli store digitali, IBS, Amazon e dopo altri, insomma, i più famosi sono questi. Per quello che riguarda invece i negozi di dischi, sicuramente da Feltrinelli, da Fnac, che ho testato proprio di persona a Roma. Dopo, qui a Padova non lo so nello specifico, ma penso che è lo stesso. Beh, è distribuito comunque in tutta Italia, da Audioglobe. Certo, quindi. Sì, sì, giustamente. Comunque Audioglobe, stavo dicendo, lo ha distribuito in tutta Italia, certo. Quindi. Quindi si trova abbastanza facilmente. Ai concerti. Ah beh, chiaramente ai concerti direttamente. Adesso è un po' presto, dicevi, per dire delle date dei concerti. Quasi sicuramente ne abbiamo una a fine settembre. A cavallo tra settembre e ottobre, sì. A Rieti, benissimo. E poi da lì si comincia. Ah, sì. I tuoi riferimenti? I riferimenti, il sito è chiaramente il MySpace. myspace.com/soluzione oppure quello ufficiale soluzione.biz, e poi c'è il sito della Giost, però c'è l'etichetta, possiamo citarlo, dai. Il progetto dell'etichetta, cosa dici? Tagliare la testa al toro, diciamo che trovate tutti i nostri riferimenti su Facebook, perché altrimenti non si è la moda. Non volevo citarlo perché tra un po' saremo anche su Reverb Nation, perché mi hanno appena detto che bisogna esserci. Cos'è? www.jostsplinder.com è vecchissimo, però lo aggiorniamo di tanto in tanto. Scusa se ti interrompo, anche New Model Label. Perché Govin, ovviamente, anche lui fa il suo lavoro promozionale con la sua etichetta e agenzia di promozione, è newmodellabel.wordpress.com, mi pare, e forse c'è qualche altro sito. Però tra poco vi posso dare questa notizia quasi... Niente prima. Sì, dovrebbe essere online il nuovo sito su cui stiamo lavorando con un altro webmaster, un'altra collaborazione eccellente, però insomma manca ancora qualche giorno per ottimizzare tutto. Qualche dettaglio. Facciamo ascoltare una traccia dal disco? Certo, vai. Facciamo ascoltare Tutto a Nulla, la traccia numero 12, la traccia più sperimentale. Esatto, esattamente. forbici per tagliare dentro e l'odio si moltiplica per ridare un senso a tutto e nulla. Trasformano e poi muoiono 10, 100, 1000 volte, piangono come nuvole nel vento, ma non posso aspettare per ridare un senso a tutto e nulla, pa, pa, pa, pa. Ridare un senso a tutto e nulla, pa, pa, pa. E dunque l'ora dedicate un malinconico saluto. Ciò che è il suo fare, perché l'essere esiste. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Non c'era la scuola del noise qua, però c'era la scuola di amalgamare un po' di tutto e fare una jam session finale come si conviene. Sì, sì. Come fosse un live. Assolutamente. Beh, questo dal vivo viene bellissimo e coinvolge bellissimo. Veramente le persone, forse più di anni 70, questa parte qui proprio della gente viene, cioè, bello. Coinvolge tutto e deve essere così, perché l'idea è così, deve essere sviluppata. L'idea di partenza è la tua, mi dicevi che era 2 minuti, 2 minuti e 5 e poi si è sviluppato. Sì. Perché dal vivo la gente preferiva lo sviluppo, l'ampliamento e sì. Via. L'esigenza anche proprio da parte nostra, la libertà totale, sì, free, la libertà totale di fare, di trovare, perché si è liberi anche così, secondo me. Beh, soprattutto, la musica è un mezzo velocissimo per comunicare. Voglio continuare a fare una cosa, ok, andiamo avanti altri 10 giri, sì sì, perfetto, seguitemi. Una volta negli anni 60, dimmi Massimiliano. Come i Cure mi vengono in mente anche più recentemente con A Forest, che sì, praticamente non finivano mai. Sì, sì, certo. Diventata famosissima, no? Andavano avanti 10 minuti. Lo so, ma bello, positivo. 12:40, no, quasi 12:50, un pezzo da vivo ce lo puoi fare ancora, anche facciamo un altro alla fine. Adesso cosa ci suoni? Cosa posso fare? Quello che vuoi. Abbiamo fatti tutti, no? C'è ancora no, io direi di fare ancora qualche minuto di chiacchiere, poi, oppure se c'hai due pezzi, perché mancano 10 minuti. Eh sì, facciamo due pezzi, ce la fai fare due pezzi dal vivo? O facciamo così, voi sentiamo un pezzo che noi abbiamo messo il singolo con Fiumani. Sentiamo Gene con Fiumani e poi bene. Vediamo cosa. Gene con Fiumani è la traccia numero 14 ed è un pezzo comunque nato in collaborazione con Federico Fiumani, nostro nostra icona, praticamente. Nostra icona degli anni. Mia e anche tua, proprio. Beh, sì, sicuramente. A mia di rimando, perché chiaramente mio fratello mi ha passato. Il gancio è stato di tuo fratello, sì. Però io ho una certa età più di tuo fratello e tua. In scala. Scala, esatto. Sentiamo allora questo pezzo molto interessante con Fiumani. Thank you. salutate i pazzi che desti all'orizzonte guardano pensieri, nelle mani acerbi crescono e silenziosamente aspettano, aspettano me. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Sì, potremmo parlare a lungo della partecipazione del filmare, però abbiamo solo 30 secondi. In 30 secondi devi dirmi che emozione hai avuto quel giorno, anche con Massimiliano. Beh, il giorno più bello della mia vita, potrei dire. Ero veramente, stavo lavorando, mi ha chiamato a telefono, fa ciao Luca, ti ricordi che mi avevi dato un demo in cui c'erano queste canzoni? Ecco, Gene è fenomenale, mi piace tantissimo. Va benissimo per me. E lì mi sono messo a piangere, te lo giuro. Certo. Non nego questo, non mi vergogno a dirlo. E da lì è nata questa cosa. Che vorrei dire? No, rido perché così Federico almeno sarà contento. No, beh, è la verità. Sicuramente un grande, d'altra parte, cioè, non spetta a noi dirlo, però noi ci siamo cresciuti con la sua musica, quindi certo, è un onore incredibile avere lui, ma anche Mao, che è nostro coetaneo, così come è Garbo. Stesso Garbo, esatto. Sì, esatto, che è il terzo brano. Penso che per motivi di tempo, perché abbiamo trasmesso parecchio pezzo, però per motivi di tempo l'abbiamo fatto sentire, non c'è problema, e lo faremo sentire ancora. Lo scopriranno, sì, gli acquirenti di questo splendido certo. CD. Ripiloghiamo dove possiamo trovarlo. Il disco si chiama L'Esperienza Segna, il gruppo è In Soluzione. Si trova in tutti i dischi, in tutti i negozi di dischi in Italia, distribuito Audio Club. Beh, se non lo trovate potete sempre richiederlo, sì, ve lo fanno arrivare, sì. Comunque abbiamo controllato. Nel giro di 5 giorni lavorativi. Velocissimo. No, Audio Club è molto contento, faccio un appunto, sì, da produttore, sì, sì. Ma scusatemi. Audio Globe è stata molto contenta di questa collaborazione, perché non solo come per te è stata una scoperta, insomma, il booklet, tutta certo. La cura, perfezione, cioè poi anche Nick Vannini è praticamente uno che viene dalla New Wave, nonché amico di Fiumani, era il primo cantante di Diaframma, quindi è stato contentissimo di chiudere questo cerchio. Sì, giustamente. Bene. Bisognava avere una giusta menzione. E niente, poi per il resto cosa stavamo dicendo? Sì, su iTunes, chi non vuole uscire di casa basta che si collega al computer, esattamente, e arriva a casa e scarica direttamente il brano. Anche i singoli si possono trovare, non soltanto l'album, per chi volesse spendere solo 0,99 centesimi. E questo è importante. Ma altrimenti penso si possa trovare anche in altri modi. Ah sì, sì, illegalmente possiamo dire che c'è. C'è anche quel mercato là. Bene, abbiamo finito Agostino? Abbiamo finito, sono le 23.56. Adesso giusto Luca tempo ci donerà un pezzo suo. Io ho detto un pezzo un po' allungato. Un po' allungato. Un po' allungato, così per finire in bellezza. Allora, prima di congedarci, Luca, intanto Blu Radio Veneto ti ringrazia di aver accettato l'invito. Grazie a voi per avermi voluto qui questa sera. Di essere stato ospite nostro, è stato veramente un gran piacere. Un grazie a Massimiliano, che ce l'ha grazie accompagnato, anche se ha parlato pochissimo. Beh, insomma, finalmente ha parlato. Siamo riusciti. È che se inizio a parlare dopo non mi fermo più. Era per quello allora. Allora Maurizio, noi diamo l'appuntamento domani sera, perché ovviamente non possiamo mancare, sì, domani sera avremo altro live, altra serata un po' lunga. Domani sera cambieremo completamente genere, andremo con il soul, con il blues, e di un duo milanese che ci viene a proporre un po' della storia del blues, insomma. Si chiamano Lucia Caputo e Daniele Bonadei, che vengono appunto a fare il live loro qui in diretta a Blu Radio Veneto. L'appuntamento è per le ore 21, sempre con Agostino Spolore e ovviamente sempre con il mio fedele compagno Maurizio Calzavara. E che dire, Maurizio, noi auguriamo un buon proseguimento all'ascolto dei programmi della nostra emittente Blu Radio Veneto, e ci congediamo con una canzone di Luca che si intitola? Si intitola Luce, e volevo spendere due parole, certo, proprio prima introducendola, che questa canzone è una bonus track riscantata insieme a Garbo, un altro Sai che è tanto che non lo sento, Carpo. Cioè, a me piaceva quello negli anni passati. Aveva delle canzoni che mi piacevano. E scivola il fiume. Il fiume, il fiume, il fiume. Che è stato riproposto, ristampato recentemente, sì, con dei bonus track della Laemi. Sì, sì, sì. Io mi ricordo che lo facevo ascoltare anni e anni, anni fa. E poi è sparito, non si è più sentito. Si è C'è stato un periodo di fermo. Sì. Ah, ecco. E poi ha ripreso di nuovo. Adesso non dovrebbe girare con una nuova band di ragazzi giovani che... Lui fa il cantante. Ripropone tutto il repertorio. Il repertorio, certo. Se lo vedi, salutacelo da parte nostra. D'accordo. E magari ce lo porti qui. Grazie allora a Luca e Soluzione. No, salutiamo anche le due Soluzioni che ci stanno sentendo, sì, a Roma. Esatto. E ciao, speriamo in un prossimo futuro di averli tutti e tre qua. Allora, parlaci di questa canzone. Luce. Niente, volevo solamente spendere appunto due parole per la collaborazione nata con Garbo. Niente, tutto qui, insomma. A lui è piaciuto il pezzo, a me è piaciuto proporglielo, è andata bene. E niente, buon ascolto. Ciao Luca. Ciao. Che luce, luce, dai tuoi occhi luce, bacia la tua bocca, bacia come Giuda col suo Dio, ma non restiamo ancora insieme. Quale giorno è il migliore per cominciare a crescere? La la la. Desiderio di non essere più qui, sguardi, vendite, non c'è nessuno che ci crede più, ma non restiamo ancora insieme. Quale giorno è il migliore per cominciare a crescere? Luce, dai tuoi occhi solo luce, luce, dai tuoi occhi solo luce, luce, luce, luce dentro. Quale giorno è il migliore per cominciare a crescere? La la la.